Cerco l'oceano che mi fa respirare, che la mia lingua può assaggiare quando soffio. L'oceano sul quale il vento scrive, sulla superficie dell'acqua. La partitura delle onde.